Appuntamento del venerdì sera di Harden Devi, la voce di Marco Gravelli con voi, con lo spazio appunto di Harden Devi dedicato alla musica live. Andremo a catturare due band completamente differenti a livello di proposte musicali. I primi arrivano dall'Inghilterra, si chiamano esattamente da Birmingham, si chiamano Magnum o Magnum, mentre la seconda band sono gli Exciter, quindi due generi, come sottolineavo, completamente differenti. Il tutto vi viene offerto nei nostri appuntamenti serali in onda dalle 20 alle 21 qua su Rock FM, da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 qua a Milano. Come sempre il mio ringraziamento personale va a Simone, che ha preparato la storia, la tracklist e tante altre piccole cose legate alle band che andiamo a proporvi. L'album in questione è uno dei tanti live. Pensate che proprio in questi giorni viene pubblicato un altro CD DVD dal vivo proprio dei Magnum, che sono ancora in attività, nonostante siano nati addirittura nel 1972, creati dal cantante Bob Catley e dal chitarrista Tony Clarkin in quella di Birmingham. Hanno alle spalle 14 album in studio, una marea di compilation, forse sono più Greatest Hits Best Of compilation che gli album che hanno pubblicato, e 4/5-6 album dal vivo, perché una compilation ad esempio doppia, che si intitola Spirit, presenta un album, uno dei due CD completamente live. Bene, noi prendiamo in considerazione questo lavoro, un doppio CD uscito nel 1996 tramite l'etichetta tedesca SPV. È il loro quarto album ufficiale dal vivo. 19 tracce, una delle quali è un intro registrato durante il tour di supporto dell'undicesimo album in studio intitolato Rock Hard del 1994. La formazione: il grande cantante Bob Catley, Tony Clarkin alla chitarra, Mickey Barker alla batteria, abbiamo Wally Love al basso e Mark Stanway alle tastiere. Il primo pezzo che vado a proporvi si intitola Changes. Sarah Changes, pezzo d'apertura di questo concerto, di questo doppio CD The Last Dance per la formazione dei Magnum, una delle più importanti band di hard rock, pomp rock melodico europee. Abbiamo detto che arrivano proprio dall'Inghilterra. Già in passato vi ho proposto Kansas e Styx, che sono le due più famose band di pomp rock americano. Questa volta ci siamo trasferiti nella nostra cara vecchia Europa con i Magnum. Abbiamo già detto che Bob Catley, cantante, e Tony Clarkin, chitarrista, fondano la band nel 72. Però dopo un tour di supporto ai Judas Priest, che nel 78 arrivano all'esordio con l'ottimo album Kingdom of Madness, che arriva al numero 58 nelle charts inglesi. Questo album gli vale anche un tour di spalla agli Whitesnake. Nel 79 esce il secondo lavoro intitolato Magnum 2, che però non riuscì a confermare i risultati del precedente album. Nonostante ciò, partono con un tour di spalla ai Blue Oyster Cult e registrano, pensate un po', un album dal vivo, il loro primo, un vinile singolo dal titolo Moroder, che nel 1980 inaspettatamente andò molto bene. Arrivarono al numero 34 nelle classifiche inglesi. Altro brano che andiamo a proporre, estratto, lo ripeto, da questo concerto, da questo doppio CD uscito più di 10 anni fa, 1996, comunque facilmente reperibile, The Last Dance è il titolo del lavoro, il brano si intitola Back to Earth. to Earth, titolo del brano da The Last Dance per Magnum, che tengono a specificare nelle note di copertina che quest'album è stato registrato totalmente dal vivo, senza sovraincisioni, quindi le cosiddette overdubs, senza correzioni. Così è, hanno suonato quelle varie sere, perché ripeto, sono canzoni prese durante varie serate di un tour del 1994. Continuiamo comunque a parlare della formazione in questione con la loro storia. Abbiamo detto che funziona molto bene il loro primo album live del 1980 dal titolo Marauder. Segue però un cambio di tastierista a favore di Mark Stanway. Arriva così la vera e propria notorietà in Inghilterra grazie al terzo album, che caldamente vi consiglio se amate questo genere, è forse il migliore della loro produzione. Si intitola Chase the Dragon e risale al 1982. Questo album in effetti arriva al numero 17 sempre in Inghilterra e vanno in tour insieme a Ozzy Osbourne negli States. Successivamente, a causa di un leggero calo di vendite con l'album The 11 Hour, perdono il contratto discografico. Così, una volta trovato una nuova etichetta, tornano sul mercato nel 1985 con l'album dal titolo On a Storyteller Night, che ne farà guadagnare credibilità tanto da valere la presenza alla celebre Monsters of Rock di Castle Donington. Altro pezzo che andiamo ad ascoltare da questo doppio album live, The Last Dance, il motivo si intitola Star Talking Love. Talk about love. So walk from the top to the Start Talking Love. Questo è il sound e Magnum, ve lo dicevo, un hard rock molto melodico, il cosiddetto pump rock per l'utilizzo delle tastiere, viene coniato appunto questa denominazione. Abbiamo ascoltato quindi Changes, Back to Earth, Start Talking Love e continuiamo a parlare della storia della band. Successo durante il festival Monsters of Rock di Castle Donington, questo successo gli vale un contratto con la Polydor che mise a disposizione un buon budget. Il risultato è l'album Vigilante, del quale furono estratti ben due singoli con anche la realizzazione di due video. Il successo aumenta con l'album Wings of Heaven, siamo nel 1988, che arriva al numero 2 in Svezia, numero 5 in Inghilterra e si riconferma con il successivo Goodnight LA del 1990, al quale segue un altro album dal vivo. Bene, altro motivo che andiamo a proporre dalla storia della band, il brano in questione porta proprio il titolo di Vigilante. Shadows, counting up the beats, are the old man gets a brain, too far to see. Just to know the promise, they don't really care. There's a movement on the borders, but the people running scared. We'll be right back. Vigilante, Vigilante Man, il brano in questione, titolo appunto anche di un ottimo album. E siamo quasi arrivati al termine della storia di questa formazione che un po' inaspettatamente nel 1995, nonostante tutto andasse bene, il successo c'era eccetera, decisero di sciogliersi. Il cantante Bob Catley e il chitarrista Clarkin crearono un nuovo gruppo, gli Hard Rain, con il quale, con questa denominazione, hanno pubblicato ben due album. Poi arriva nel 2002 la reunion con l'album Brief of Life, seguito due anni dopo da Brand New Morning del 2004. L'ultimo album in studio è stato pubblicato a marzo del 2007, sempre per l'etichetta tedesca SPV, si intitola Princess Alice and the Broken Arrow. Per le prossime uscite, in occasione del 20° anniversario dall'uscita dell'album Wings of Heaven, è stato annunciato questo album dal vivo, doppio album, probabilmente anche DVD, Wings of Heaven Live, registrato durante l'ultimo tour dello scorso novembre, come vi avevo detto in apertura, e sembra che la pubblicazione sia imminente. Chiudo quindi il capitolo legato alla formazione Magnum con l'album The Last Dance, ricordo, doppio CD dal vivo, il tour del 94, pubblicato nel maggio del 96, con Bob Catley alla voce, Tony Clarkin alla chitarra, Mickey Barker alla batteria, Wally Love al basso e Mark Stanway alle tastiere. Vi andiamo ad ascoltare con il brano che chiudeva questo show, One Sacred Hour, Magnum. Thank you. no escape from this powerful dream. But I please, though I am to be here, I am lost in the real world. I can hear them calling, where the heart of God is. It's real, I can feel it. Seconda parte del nostro appuntamento del venerdì, quello dedicato ai live con il gruppo che andiamo a prendere in considerazione, che arriva esattamente da Ottawa, Canada, considerati i padri dello speed metal. Si chiamano Exciter, andremo a prendere in considerazione il loro primo album dal vivo, uscito nel 1993, pubblicato all'epoca dalla Music for Nation. Avevano già alle spalle 6 album e questo appunto è il primo, con è il primo live con 13 brani in totale. La maggior parte sono i loro classici ed è stato registrato in Canada nel 1991. Le canzoni sono tratte dai primi 3 album della band: Heavy Metal Maniac, Violence and Force e Long Live the Load, questi titoli naturalmente dei 3 album. L'album in questione si intitola invece Better Lie Than Dead. La formazione, abbiamo detto, è quella degli Exciter, composta da Dan Biller alla voce e alla batteria, John Ritchie alla chitarra, che ad oggi è anche l'unico membro storico, e Jeff McDonald al basso. Il primo brano che andiamo a proporre è un loro veramente classicone, Heavy Metal Maniac, Exciter. Thank you. i gruppi più importanti della scena speed thrash mondiale, appunto gli Exciter, che questa sera vi stiamo proponendo con Better Alive Than Dead. Questo è il loro cavallone da battaglia, Heavy Metal Maniac. Il gruppo, abbiamo detto, arriva dal Canada, dalla città di Ottawa, nati nel 1978, dapprima con il nome di Hellraiser, cambiato nel 1980 nell'attuale Exciter, ispirandosi alla famosa canzone dei Judas Priest tratta dall'album Killing Machine. Ed è grazie ad un demo inviato al talent scout dell'epoca, che si chiama Mike Varney, che riescono a partecipare alla compilation US Metal Volume 2. Questo gli vale un contratto con la Sharpnel Records, l'etichetta dello stesso Varney, che ne pubblica l'album d'esordio nel 1983 dal titolo Heavy Metal Maniac. L'album li fece subito emergere dall'underground, gli valse anche un tour di spalla con la formazione dei Black Sabbath, oltre ad un contratto con l'allora celebre etichetta Megaforce Records. Altro brano che andiamo a proporre è quello che apriva questo concerto, motivo dal titolo Stand Up and Fight, Exciter. Stand Up and Fight, questo è il titolo del pezzo che apre il lavoro in questione, Better Alive Than Dead, la prima registrazione live ufficiale, concerti tenutosi nel 1991, poi questo lavoro viene pubblicato nel 1993. Continua la storia del gruppo, lo ricordo, preparata come sempre dal nostro autore Simone. Arrivano nel 1984 alla pubblicazione del secondo album, Violence and Force. Tutto questo ne accrebbe la notorietà, tanto da suonare come spalla agli Anthrax ed intraprendere poi un vero e proprio tour in America di spalla ai Mercyful Fate. stipulano poi un nuovo contratto discografico, questa volta con la Music Formation, che ne pubblica il terzo album dal titolo Long Live the Load, e siamo nel 1985, che gli permise di arrivare anche in tour in Europa, dove suonarono di spalla sia i Motörhead che gli Accept. Altro brano che andiamo a presentare si intitola Long Live the Load, abbiamo citato appunto questo album, andiamo ad ascoltare la title track nella versione live da Better Light Than Dead Exciter. Chiusura che non arriva mai di questo brano, Long Live the Load, da Better Life and Dead, la formazione quella degli Exciter. Abbiamo detto E siamo nel 1985 che il gruppo diventa sempre più famoso e sentite un po' questa storia legata ad un invito a suonare insieme agli Slayer e ai Megadeth, in pratica una specie di festival. La band accettò all'istante, ma in seguito vennero a sapere che gli headliner della serata non erano loro, ma gli Slayer. Così il batterista cantante Dan si impuntò che non avrebbe suonato se non erano loro gli headliner, e Richie, cioè John Richie, che è il chitarrista, fu costretto a disdire la loro partecipazione, nonostante le suppliche da parte degli organizzatori che avevano già fatto una massiccia pubblicità. Visto il grave errore che stavano facendo, Richie convinse poi Dan ad accettare, ma quando richiamò gli organizzatori era ormai troppo tardi e si sentì riempito di insulti, poiché la Banzai, che era appunto il management che ha organizzato il tutto, ci smenò molti soldi. Dopo quella brutta esperienza, John Richie lascia il gruppo. Con un nuovo chitarrista esce nel 1986 il loro quarto album, dal titolo Unveiling the Wicked, al quale segue un nuovo tour in Europa, nuovamente coi Motorhead e anche insieme ai Manowar. Altro classico del gruppo che andiamo a proporre si intitola Pounding Metal. Oh! Si chiamano Exciter, gruppo storico del panorama speed trash, direttamente dal Canada, con la presentazione questa sera in Arden Devi su Rock FM con Better Live Than Dead, il primo album live della storia della band. Siamo al 1988 in occasione del loro quinto omonimo album. In questo caso la line-up viene addirittura estesa a quattro elementi con l'ingresso di un nuovo cantante. In effetti Dan Biller fino a quell'anno cantava e suonava la batteria, quindi non è sempre facile. Hanno deciso di prendere appunto un nuovo cantante, ma dopo due anni la band si scioglie. Nel 1991 il chitarrista Richie e il batterista Biller ricreano la band a tre elementi con un nuovo bassista e tornano sul mercato un anno dopo, nel 92, con l'album Kill After Kill. Segue la pubblicazione di questo album live che vi stiamo proponendo, che vi stiamo presentando, e parallelamente un nuovo scioglimento avvenuto proprio nel 1993. Un altro classicone della band, il pezzo che chiudeva i loro concerti, motivo intitolato Violent and Force, Exciter. Era la title track del loro secondo album, Violent Force, motivo che chiude il loro concerto. Abbiamo tempo comunque di concludere anche la storia della band. Siamo nel 1996 quando John Ricci ricrea gli Exciter con un nuovo bassista, batterista e soprattutto cantante, cioè Jacques Belanger, che canterà anche nei tre successivi lavori. Belanger ha lasciato la band nella primavera del 2006 e il suo posto è stato preso da Kenny Winter, insieme al quale hanno già registrato un nuovo album dal titolo Thrash Speed Burn. L'uscita era prevista per il novembre dello scorso anno, ma il tutto è stato rimandato al prossimo 22 di febbraio. E con questo arriviamo praticamente alla chiusura, al termine del nostro appuntamento di questa sera. Il ringraziamento come sempre va al nostro autore Simone, a voi che mi avete seguito, Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1, il nostro sponsor. Marco Gravelli si congeda da voi, vi lascia con l'ultimo brano in programma da questo Better Life Than Dead per gli Exciter, si intitola I Am The Beast. Vi auguro un buon weekend e a risentirci al prossimo lunedì su Rock FM con Hard and Heavy dalle 20 alle 21. Ciao!